Che buono. Oggi ho trovato il giusto tono. Sono buono. Sono buono. Sono buono. Sono buono. Oggi ho trovato il giusto tono. Sono buono. Sono buono. Sono buono. Oggi ho trovato il giusto tono. In che senso? Sono buono. In che senso? Sono buono. In che senso? Il basso è la voglia. Sono in mono. Perché? Sono buono. Ma dimmelo. Sono buono. Perché? Poi la cassa potente come un tuono. Bom bom. Sono buono. Bom bom. Sono buono. E ho capito che mi piace questo suono. Sono buono. Sono buono. Io non sono più cattivo e ti perdono. Non ci credo. Sono buono. Non ci credo. Sono buono. Ma poi vado nei locali col frastuono. Boom, boom, sono boom, buono. Boom, cic, cic, boom, sono boom, buono. Le feste per me sono un grande dono. Sono buono, vai!